Play my dice. Como en Ralph quieren hacer lo mismo en Prima y Ken, matando todo lo hermoso que tiene. Su nemo en cada río tiene su fuerza, su belleza. No dejemos que la destruyan con su represa. Como en Ralph quieren hacer lo mismo en Prima y Ken, matando todo lo hermoso que tiene. Su nemo en cada río tiene su fuerza y su belleza. No dejemos que la destruyan. El gobierno dice que estamos crisis energética, que hay que construir centrales hidroeléctricas. Mentira, son intereses económicos que llenan los bolsillos de wincas políticos, haciendo pase los balsas con falsas expectativas. Desarrollo, un otoño inunda la tierra nativa. Nuestra mapu es pureza y no se manosea. Si quieren destruirla, mapucha la pelea. El alto bio bio, pehuanche en agonía. Fuerte sufrimiento era para la Patagonia. Represas y torres de alta tensión, bajo el amparo del Estado, el privado es invasión. Pañunamos y no nos permitamos que sigan destruyendo el lugar donde habitamos. Seguir luchando en nuestra tarea contra pulmones de esas en el Power S.A. Yeah. Como en Ralph quieren hacer lo mismo en Pilma y Ken, matando todo lo hermoso que tiene. Su nego en cada río tiene su fuerza y su belleza. No dejemos que la destruyan con su represa. Como en Ralph quieren hacer lo mismo en Pilma y Ken, matando todo lo hermoso que tiene. Su nego en cada río tiene su fuerza y su belleza. No dejemos que la destruyan. Ahora Pilma y Ken sin represa, fue lenta a ti. Tuve sin represa, Calidad 10 sin represa, Pura Nueva sin represa, Río Ñuble sin represa, Río Maipo sin represa. Nuestros ríos no se venden, fue leita a ti. Se lucha y se defiende, fue leita a ti. Marcio, Benjamin. E allora, siccome in ascolto da Parigi Wakeel, noi veramente di nuovo approfittiamo per ringraziarlo, per mandargli un enorme, enorme abbraccio di resistenza. E allora adesso direi che è arrivato il momento di mandare le sue parole direttamente. Come sapete, se quello che io tradurrò vi risulti incomprensibile, chiamerete il 491750 e mi direte: guarda, ripensaci, va bene? E allora io comincerei con la sua voce. Allora, un'altra puntata è l'Eschina del Soul. Come sempre cerchiamo di mischiare le parole e la musica dell'America Latina. Come succede nelle ultime puntate, siamo al telefono con un artista, un hip-hopero, un cantante, un compagno mapuche. Stiamo parlando di Wakeel, che è arrivato dal Cile in Italia per portare non solo la sua musica, ma sicuramente una musica piena della lotta mapuche. E allora riusciamo a intervistarlo qui per telefono e iniziamo a farle qualche domanda. Entonces, gracias, Wakeel, por tu colaboración, por participar en esta entrevista. Y bueno, yo sé que tú estás de gira a Europa. Y no es una gira como artista, porque tu arte está bien atada a lo que es la lucha del pueblo mapuche y la resistencia del pueblo mapuche. Allora, io so che stai in giro per il Sud America, allora quello che ti va per l'Europa, tipo, so che la tua non è solo una gira artistica, ma anche del pueblo, muy de la calle, ma anche perché la tua arte è molto legata alla lotta del popolo mapuche. Allora quello che io ti vorrei chiedere è come hai scelto l'hip hop, come hai fatto a legarlo alla lotta del popolo mapuche, e in particolare se nella tua musica usi dei ritmi che appartengono al popolo mapuche nel senso della musica. Allora un'altra puntata è l'Eschina del Soul. Y también Gracias, Wakeel, por tu... Allora, è fantastico che io riesco sempre a fare qualche cacciara. Allora, vediamo se riesco a mandare un pochino avanti. Y en esto se enlaza muy bien con la música, y en este sentido con el hip hop, donde los ritmos también son muy parecidos, considerando que el hip hop viene de... Allora, de gente che hacía... Calcolando che l'hip hop è un tipo di musica che viene dalla strada, questo si lega molto bene con la lotta di resistenza. Es un medio de comunicación para nosotros, es poder explayar todo lo que nos sucede, ya sea en el territorio, el conflicto, los presos políticos mapuche, también manteniendo nuestra cultura, ya que en esto también se... Quello che mi interessa molto è riuscire a mantenere la nostra cultura, una resistenza che si lega molto bene a questo genere di musica. che è también lo che nosotros queremos proyectar. E quindi legare anche l'hip hop a quella che è la nostra lingua, al mapudungun, che si lega molto bene. Claro, y en tu música tú también portas ritmo de la música mapuche. Yo sé que es una música muy come si dice, canzonata di tambores claro. E poi se metti anche i ritmi mapuche nella musica, io so che la musica mapuche è molto piena di tamburi. Io igual tomo il tema del mapudungun ma sì, insomma, comunque io porto il mapudungun, quindi la nostra lingua e i ritmi mapudungun in castigliano, sia il mapudungun che in castigliano. Il tema della musicalizzazione è molto importante per riuscire a far passare un po' della nostra cultura, della nostra musica. Questo dà all'hip hop e rap mapuche quella che è la nostra identità di hip hop e rap mapuche. Anche per il fatto che tu trasmetta il messaggio della lucha mapuche Claro, acá es muy importante el castellano. Me imagino anche per il fatto che tu parli di questo sia importante farlo in spagnolo, perché sia, perché possa arrivare. De viajar y portar tu música como parte. Da quanto tempo ha deciso di fare il cantante, di usare questo mezzo di lotta e di viaggiare? E se per fare questo tu hai mai ricevuto minacce? Ho visto un video dove tu hai partecipato a tante iniziative, per esempio per la liberazione della Macilinconao, tu sei un militante, sei molto presente anche nelle azioni, oltre che viaggiare e portare queste cause. Quindi se sei mai stato minacciato, represso, il fatto di essere artista in questo modo? Tutto parte nel 2005 in realtà. Io pertenezco a un gruppo che si chiama Huachicachen y Cabun. Nel 2005 tutto inizia e io partecipo in questo gruppo di gente giovane che fa musica e lo chiamiamo Mapuche Fusion, che non è solo hip hop ma è anche cumbia, diversi stili musicali, dove noi raccontiamo parte della nostra cultura, della nostra tradizione. La cosa importantissima è cambiare anche lo stile musicale, perché non tutti ascoltano l'hip hop ma anche differenti stili di musica, quindi ne potevamo raggiungere più persone. Con questo gruppo abbiamo già fatto circa 9 dischi. Abbiamo toccato molte tematiche del nostro del popolo e abbiamo viaggiato abbastanza, anche abbiamo girato nel Walmapu, abbiamo parlato del Walmapu. È parte del territorio argentino e cileno. Per ricordarvelo, Walmapu è parte del territorio argentino e cileno. Nosotros le decimos de mar a mar, en realidad dell'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. E quindi dall'Oceano, in realtà il nostro territorio andrebbe dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Al sud del Cile e al sud dell'Argentina. Quindi tutta questa parte dal sud dell'Argentina al sud del Cile è territorio mapuche, ma intenta nazionalizzare e sempre habla del mapuche, si riferisce a un territorio cileno. Ma la gente cerca di nazionalizzarlo e parla dei mapuche solo in territorio cileno, mentre il Walmapu è un territorio molto esteso. Argentina. E ora si sta cercando di nazionalizzare anche in Argentina. Noi quindi abbiamo girato molto il Walmapu tra il Cile e l'Argentina, conoscendo anche altre lotte, altre richieste, e conoscendo anche altri popoli che stanno lottando contro Benetton, in particolare in Patagonia, visto che Benetton ha una grandissima parte della Patagonia, e ogni volta girando il territorio mapuche si impara, si osserva, si portiamo la nostra musica, ma impariamo anche quali sono le richieste di questi popoli nelle loro località, quindi contro le forestali, contro le centrali idroelettriche. C'è molto da dire e credo che la musica è un ottimo mezzo per poter realizzare questo tipo di cose. llevar tu música en el país de uno de los más culpables de la represión del pueblo mapuche. Che impressione ti fa portare la tua musica nel paese col più grande colpevole della devastazione mapuche, tra l'Enel appunto, con le sue imprese idroelettriche, progetti di imprese idroelettriche e di Benetton, che è uno dei peggiori nemici del popolo mapuche, nonostante che qui insomma lo esaltino meraviglia dell'impresa italiana, nonostante qui venga riconosciuta come una grande impresa italiana. Claro, además. No, en realidad, bueno, estar acá y poder stare qui e poter parlare di quello che è la nostra cultura tramite la musica mi ha fatto capire che c'è molta gente che sta appoggiando la nostra causa, la nostra resistenza come popolo mapuche. C'è molta gente che solidarizza e che sta contro questo grande impero, stando qui nel nucleo del capitalismo in Europa, in realtà. Chiaramente hay gente que no le interesa esta música, claramente hay gente que chiaramente c'è chi se ne frega, chi non gli interessa questa musica, chi la sente solo per sé, o che comunque fa molta discriminazione. La razza aria de la gente blanca, dividendo la dividente bianca, la gente india, la gente di altri colori. In realtà uno lo vede molto chiaramente il razzismo qua, incontra dei fratelli e le sorelle che gli raccontano come sono stati discriminati. La che vive in questo hermano si viene forte, nosotros allá también estamos viviendo una discriminación por parte del Estado. Quindi quella che si vive qua è molto simile a quella che viviamo anche in Cile. Della repressione che subiamo in Cile per voler mantenere le nostre risorse, il nostro territorio, la nostra cultura. Stiamo ricevendo lo stesso tipo di repressione di un Stato cileno, argentino e argentino che la informazione che llega desde allá, come che Cile o Argentina stanno integrando al popolo mapuche, ma l'informazione che arriva qua è quella che stanno integrando il popolo mapuche, lo stanno comprendendo, ma sono informazioni che in realtà non sono reali, perché la verità è che la nostra gente è repressa, è messa in carcere, viene alienata, ci sono dei prigionieri politici che sono stati giudicati in maniera abbastanza con la legge antiterrorista di cui abbiamo parlato, che è entrata in vigore con la dittatura di Pinochet e che è ancora in vigore. Questo da parte mia lo sento molto, mi sento molto solidale con loro e con la gente che sta qui, con la gente migrante che sta lottando e sta cercando di mantenersi in piedi in questo posto dove giorno dopo giorno vengono discriminati, dove comunque il potere sta creando leggi per poter o mandarli via o metterli in carcere come clandestini. Otra pregunta que me gustaría que tú explicara un poco cuál es la importancia. Un'altra cosa che mi piacerebbe è l'importanza della tua musica in un paese dove i Mapuche vengono attaccati da diversi punti, ossia da un lato sì c'è la legge antiterrorismo, che è un'eredità della dittatura pinochettiana, ma anche una sorta di conflitto di bassa intensità, cioè quindi smontare la rete della comunità mapuche, attaccando per esempio un'autorità spirituale come la Machi Linconao, oppure autorità fondamentali, perni fondamentali delle comunità mapuche. E quanto questo è importante nella misura in cui il popolo mapuche è un popolo che vive in relazione con la sua terra e con le risorse della terra, l'aria, l'acqua, il cielo, le foreste, che sono le cose che voi difendete e che sono cose che noi forse abbiamo un po' perso, questa relazione col territorio come prima fonte di vita. Prima è necessaria vita per l'essere umano. Nosotros como primer mundo hemos absolutamente perdido. Claro. Bueno, yo creo que bueno, al igual que todo, muchos hermanos de otros pueblos originarios que se mantienen en. Io credo che molti altri indigeni di popoli originari, il popolo mapuche, come questi altri, certo, la nostra luce è in difesa della natura, che è il nostro pilastro principale. Noi facciamo le nostre cerimonie, si bien nosotros defendiamo nuestro territorio, noi difendiamo il nostro territorio perché è una parte fondamentale della nostra cultura, non abbiamo niente di materialista, è come mantenere uno spazio che mantiene vive. Per esempio la nostra Maci può fare il suo lavoro in relazione con la natura, così che noi possiamo guarire. Tutto questo è legato e ha tutto un fondo legato alla natura, che e per questo è uno dei motivi per cui la difendiamo, soprattutto con l'attenzione ai latifundisti, che insomma sono ancora molto presenti in Cile, e la nostra lotta nasce così, le nostre richieste di difesa del territorio nascono per questo. E questo è chiaramente contrario al sistema, loro cercano di diffondere una forma diversa da quello del popolo Mapuche, il territorio per loro è una materia importante e quindi ci criminalizzano e cercano di uniformarci e di relazionarci alla visione materialistica che tengono, che hanno loro, e quindi invadere i nostri spazi cerimoniali. Attaccare i nostri pilastri fondamentali, e questo è il motivo per cui stiamo lottando. Le nostre autorità e i nostri territori, i nostri spazi cerimoniali, dove ci sono delle forze nei nostri fiumi, nella nostra terra. Noi non solo stiamo difendendo il nostro fiume, ma la forza che questo fiume ci dà, il significato che ha per noi questo fiume, l'acqua. La vita in realtà per qualsiasi persona è quella fonte di vita che comunque a qualsiasi persona è fondamentale, per qualsiasi persona, e non è un materiale su cui si può lucrare, su cui si possono tirare fuori dei soldi, su cui si può intervenire in maniera materiale, l'unico, con l'unico scopo che interessa, che è quello dei soldi, della ricchezza. Arrivano con i loro progetti giganti e devastano. Quindi tristemente frente a nuestra lucha siempre va a haber algo que nos ha tildado, que en realidad que ahora el tema de que por defender nuestra tierra somos terroristas. Adesso il problema è di questa legge, e quindi il principio che per difendere la nostra terra veniamo visti come terroristi. Questo stigma per noi in realtà non nos interessa mucho, pero lamentablemente non ci interessa molto, ma tristemente ci sono leggi che ci possono che permettono che noi veniamo attaccati e che i nostri compagni vengano messi in carcere e vengano appunto vengano arrestati, e per ribellarsi comunque portano avanti scioperi della fame. Questa legge antiterrorismo comunque è stata creata da Pinochet, e ora in quello che dovrebbe essere una democrazia viene applicata esattamente come prima. Tenemos algo muy parecido. En relación a los presos políticos y las presas políticas mapuche, de que comentamos en las pasadas puntadas así de la transmisión con los compañeros de allá, me gustaría no solo recordar la lucha de ellos, su resistencia increíble. Rispetto ai prigionieri politici, mi piacerebbe ricordarvi intanto rispetto ai prigionieri politici e poi della popolazione mapuche che soffre in tutti i livelli, anche i bambini. E allora anche i bambini vengono attaccati. Allora mi piacerebbe che tu mandassi un saluto. Él también es un hipopero y tiene su grupo que se llama Hip Hop Mestizo, porque él es peruano y vino acá y encontró que el hip hop. E allora qua la richiesta è quella di fare un saluto a Eddie, un altro compagno, un altro prigioniero politico a suo modo, e quindi la mia richiesta era quella di ringraziarlo per essere stato colui che ha potuto questo legame tra me e Milano e arrivare fino al Cile, Mapuche de Cile Argentina. E allora chiedo di fare un saluto al compagno Eddie, altro rappero. Felei, Fontelle Moya Peñi, Rumé Mañum, agradecido hermano de este contacto en realidad, hermano Eddie, que en realidad nuestra lucha es una lucha unificada en realidad en todo el territorio. Si bien para el capitalismo nosotros somos como los bichos raros, para la gente aria somos una raza, no sé, distinta, inferior, pero nuestra lucha y nuestras demandas son mucho más importantes, y también comunican mucho más que que todo este imperio, que en realidad lo único que le interesa es la plata. O sea, agradecido, hermano, de corazón. E allora il saluto, un grande saluto per Eddie e per tutti questi strani animali, questi strani insetti che attentano, cercano di attentare al capitale, che con la loro musica, l'hip hop mestizo, sia con l'hip hop mapuche, possano unificare i popoli oppressi, ma anche mantenere una resistenza attraverso la musica, attraverso spazi di lotta, messaggi che a livello dei popoli originali del Latino America stanno prendendo una resistenza, e molti fratelli e sorelle stanno facendo hip hop in Maya, in lingua zapoteca e anche in Mapudungun, così che l'hip hop sta prendendo di nuovo la forza e sta anche prendendo il linguaggio della terra e di ogni territorio. Sì, che sia importante. E allora, dopo i saluti a Eddie, chiedo a Waikil se vuole aggiungere qualcosa che non ha detto. No, bueno, solamente para la gente del Gualmapu, enviar mucha fuerza a todo nuestro hermano, a toda nuestra gente que está, a todos los pueblos originarios que están luchando día a día, manteniendo una resistencia territorial, cultural. E allora il saluto è quello che deve arrivare al Gualmapu, mandare molta forza a tutti gli amien che stanno resistendo, ai prigionieri politici per difendere i loro territori, per difendere gli spazi naturali. E allora molta forza a tutti i nostri fratelli. L'imperialismo e il capitalismo sono molto forti, anche la repressione, ma noi siamo qui non perché ci hanno riconosciuto, ma perché la nostra resistenza mapuche, o come popolo originario, si mantenga. E si sta mantenendo da tantissimi anni, e quindi la nostra gente, le nuove generazioni, continueranno a lottare per la nostra lingua, la nostra lucchina, la nostra cultura, la nostra saggezza e la nostra terra. E allora molta forza a tutti i nostri fratelli, ringraziandoci per la trasmissione. Grazie. Entonces un abrazo grande y esperamos encontrarnos una vez en la vida, ¿no? Que sería lindo. Te abrazo y de verdad muchas gracias y salúdame los compañeros de allá. Ya pues, muy agradecido también, salud para usted también y que esté muy bien, que todo salga bien en este trabajo colectivo que está haciendo. Vabbè, insomma, ero un po' emozionata, eh? La casa la rifaremo meglio, il file lo sapete, lo troverete tra un pochino, insomma, tra oggi e domani sul sito. Beh, sicuramente con Waikil abbiamo ripetuto delle cose che abbiamo già detto rispetto al popolo mapuche, che non ci stancheremo di raccontare. Resistenze, resistenti da una parte all'altra di questa grande mela. E allora Eddie, glielo devo dire, è una settimana, fratello, dai, vedrai. Allora, insomma, per continuare i saluti di Eddie e rimanere così ancora mentre così mentalmente ancora attaccata al Gualmapu, a questo mondo che vorrei tanto vedere, perché indubbiamente, insomma, da questa parte della mela ci siamo un po' materializzati, invece sarebbe bello scoprire anche così, imparare a riscoprire certi legami, vedere come la gente ancora li vive. E allora, insieme ai saluti dei Waikil, ci sono altri saluti per il nostro compagno che immagino si stia ascoltando, se invece no tanto vai a sentire il podcast. E allora questa è una dedica che viene direttamente da Milano, caro Eddie, eh? Quattro mesi nell'inferno dello Stato. Mi avevano ingabbiato perché considerato soggetto avverso. E arrivano gli sbirri quando scendi in stazione. Mi fanno controllare per la mia reputazione. Portatelo in centrale e fatela annusare. Col fitto del mio cane lui non può scappare mai. Non lo farò mai. Lo sbirro non lo farò mai. Neanche finanziare. E adesso se te vogliamo bere. Vogliamo andare a bevere giovedì, eh? Hai capito, Eddie? Una scuffia se piamo. Vogliamo bere. Anzi, poi ce l'andiamo a prendere a Milano, eh? Vogliamo bere. Resisti, fratello, tieni duro. Sono stato quattro mesi nell'inferno dello Stato. Mi avevano ingabbiato perché considerato soggetto avverso. Qui arrivano gli sbirri quando scendo in stazione. Mi fanno controllare per la mia reputazione. Portatelo in centrale e fatela annusare. Col fiuto del mio cane il vino può schiappare. Mai, non lo farò mai. Lo sbirro non lo farò mai. Neanche finanziare. E adesso se ti vogliamo bere. Speriamo che i nostri saluti siano arrivati a Wake Hill fino a Parigi. Ancora una volta grazie a Geraldina, a Wake Hill, a Eddie. Io so che Wake Hill sta preparando una cumbia mapuche, eh?